16. Philip pensò che soltanto 2 anni prima percorreva la via da Canajoharie a Oswego per finire a combattere in Canada. Adesso la guerra era dappertutto, eppure si partiva sempre da lì, dalle sponde del Grande Lago, dove gli irochesi si erano dati convegno ancora una volta. Oroñateca indicò il fumo che saliva oltre le cime degli alberi. Erano vicini ormai. Erano appena una 30, gli ultimi uomini validi rimasti a Canajoharie, più il vecchio Sachem Takerioga. Era stato un viaggio silenzioso e invisibile, senza fuochi né soste prolungate, in un territorio ormai ostile. A ogni tappa, Filippo aveva sentito il martellare del picchio. Li seguiva, volava avanti e sopra di loro, controllando che le piste fossero libere, e col suo battere li incitava a proseguire, a fare in fretta. Quando le prime tende apparvero ai margini della radura, Canenonte lanciò un grido che annunciava il loro arrivo. Canatawakon e Sakienakenta gli fecero eco mentre Filippo riempiva i polmoni del fervore che bruciava l'aria. Alcuni Highlander estrassero pezzi di carne bollita da un pentolone ammaccato. Filippo sedette accanto al fuoco e ringraziò. Guardò le fiamme sopra il recipiente danzare sulle braci. Pensò a ciò che rimane dopo la combustione. Una sostanza polverosa, secca. Schegge annerite, cenere grigiastra. Il fuoco vivifica, eppure consuma. Il legno si disfa, diviene scheletro nerastro, relitto inutile, muta polvere. Era una strana estate. I temporali si susseguivano rabbiosi, spezzavano i rami degli alberi, mutavano la terra in fango viscido. Al sole la pelle del volto scottava, all'ombra il corpo rabbrividiva. Le cime dei pini oscillavano in tutte le direzioni, teste di frati impegnate a cantare ognuno una strofa diversa. Tutte le canzoni erano dolenti. Il sapore della carne era stopposo. Dall'altro lato della piazza d'armi una figura attrasse la sua attenzione. Una giovane donna camminava verso di lui. Philip sentì una voce interna pronunciare un nome. Esther avanzava, unica macchia chiara nel grigiore dell'accampamento. Sul volto un sorriso lieve, imprescrutabile. L'ampia gonna, serica tonalità fra il rosa e il giallo, lambita dal fango. Una cuffia urlata di pizzo a proteggere l'acconciatura. Irradiava una tenacia che Filippo aveva colto in potenza quel giorno, a Londra, quando le aveva preso la mano e che adesso sembrava dispiegata. Intorno al polso, il bracciale che le aveva donato. Filippo si alzò in piedi. «Signor Lacroix!» La voce si era fatta matura. Era una donna, ne avvertiva l'odore. Filippo non seppe come rivolgersi a lei. Rimase zitto. Esther lo guardò dal basso in alto. «La bambina che si nascondeva nella legnaia, ricordate? Ho quasi 15 anni adesso!» «Cosa fate qui?» riuscì a chiedere Philip. «C'è la guerra!» «Mio zio, il signor Klaus, presumeva che avrei potuto incontrare mio padre. Doveva raggiungerci da New York, ma io sapevo che non sarebbe venuto!» Philip aggrontò la fronte. «Lo sapevate?» Il volto di Esther si tinse di un'ombra cupa. «Non tutti gli uomini sono coraggiosi», puntò gli occhi in quelli di Philip. «Solo qualcuno lo è abbastanza anche per gli altri, e sapevo che l'avrei incontrato qui». Philip si chiese come fosse possibile che quella giovane donna fosse lo stesso essere impaurito che aveva lasciato in Inghilterra. Era passato appena 1 anno. Poi ricordò che a quell'età il tempo si conta a giorni e che giorni come quelli che avevano affrontato rendevano adulti in fretta. «Ora devo andare, signor Lacroix. Zia Nancy mi starà cercando». Philip si risedette presso il fuoco. Non poteva formulare pensieri perché qualcuno gli si accovacciò accanto. Non si vedevano da 1 anno, ma Joseph parlò come per riprendere un discorso appena interrotto. «Molly non è voluta venire, allora?» «Crede di poter essere ancora utile laggiù». Joseph annuì. «Lo immaginavo. Il tuo messaggio diceva che c'erano tutti», disse Philip, «ma gli Oneida non ci sono». «Ha importanza? Ognuno sceglie per sé», rispose Joseph. «Facciamo parte di un grande esercito. Entro l'autunno saremo a casa». Inforcò un pezzo di carne, ci soffiò sopra e l'azzannò. Dopo aver masticato a lungo, sputò il boccone nella polvere. «Questa carne è di legno». Si alzò e sfiorò la spalla dell'amico con la mano. «Si parte tra 2 giorni», disse. «Andiamo a prendere Fort Sandwich. Ci saranno anche Seneca». Fece per allontanarsi, ma si trattenne e si abbassò di nuovo. «Sono contento che tu sia qui». Philip lo guardò attraversare lo spiazzo a passi sicuri. C'era riuscito. Era un capo.